Quarta ed ultima parte di Rock Legends, continuiamo ad ascoltare i brani del disco dei Dial Maze dal titolo Fight the Black Sun. Come si chiamava questa canzone? Questa canzone si chiamava Through the Desert. E dopo il disco, quali impegni attendono la band per il vostro futuro? Ma intanto aspettiamo che esca l'album il 15 d'ottobre, dopo vediamo il responso che ci daranno. Intanto abbiamo un paio di date dalle parti nostre che a fine programma vi daremo. E poi se Cesco vuol dire qualcosa... Sì... Abbiamo comunque qualcosa di più grande, parlo di evento live un po' più grosso, comunque ve lo faremo sapere tramite il nostro sito, che lo dico già adesso, è www.dialmaze.com, ripeto www.dialmaze.com. Ora ascoltiamo quale canzone? Adesso ascoltiamo Burning House. We'll be right back. Il tempo scorre inesorabile e noi ragazzi siamo in chiusura di puntata. Vi ricordo i contatti per vostre segnalazioni. Scrivete l'indirizzo email jeanluc76m@yahoo.it. Ricordo il sito www.radiorcs.it per info su Radio RCS e su Rock Legends, oltre che la possibilità di ascoltare la nostra radio in streaming attraverso i vari player. Un grazie a Dial Mace per la partecipazione e un augurio di pronto ritorno in futuro per la presentazione di un nuovo album. La parola per i contatti web ed email per info sul vostro disco e un calendario di live. Allora, i contatti sono www.myspace.com/dialmace oppure www.dialmace.com. Le date sono il 23 ottobre al Barbon, che è un baraccio. Grandissimo bar, ragazzi. Questo è un grandissimo bar dove. È un bar rock, dai. Il divertimento, diciamo, è assicurato. È lì. Con rissa finale. Con rissa finale. Questo è il 23 ottobre a Monfalcone. Invece la data dopo è il 27 novembre, che tra l'altro è il mio compleanno. Auguri, Cesco. Auguri in anticipo. Grazie. Al The Gammon a Chiopris Viscone, in provincia di Udine. Sì, questo è un bar già più serio. Questo è un locale molto bello, poi, tra l'altro. Brano per chiudere questa serata? Allora, il brano per chiudere è proprio il brano che dà il titolo al CD, e è appunto Fight the Black Sun. Jean-Luc e Dial Mace vi salutano, noi ci risentiamo come sempre venerdì prossimo. Ciao!